letto e poi ti sogno, mi rigiro nel letto e cerco te. La coperta non tiene caldo, c'è un bel film ma non lo guardo, ed in quella foto vedo ancora te. Con il tempo tutto ha un senso, anche il sapore del lamento che mi tiene sveglio senza te. Scende una lacrima e mi trova sopra, e come un'ombra dietro a un vetro immagino, ho il dubbio di quel che rimane a me di te, e dall'idea lo sai che io mi agito. Vieni qui e tocca i miei pensieri con i tuoi, e sentirai che io rispetto a te sono più fragile, sì, mi difendo, sai, ma mai da te. E cammino dentro la stanza, col computer io non ci parlo, quindi un'altra volta ancora penso a te. E ho scoperto che ne ho bisogno, che il tuo vivere lascia il segno, e senza il tuo spazio son disperso in me. Scende una lacrima e mi trova solo qua, che come un'ombra dietro un vetro immagino, ho il dubbio di quel che rimane a me di te, e dall'idea lo sai che io mi agito. Vieni qui e tocca i miei pensieri, e sentirai che io rispetto a te sono più fragile, sì, mi difendo, sai, ma mai da te. Scende una lacrima che affoga la città, e intanto io delle tue labbra sono avido per te. Ci abito.